Thank you. fa. Ora. Ora. Dai, caro. Beh, Marco. Ehi, aspetta, Antonio, ci sentiamo fra... Se ci sei un quarto d'ora, 20 minuti, sto iniziando a mangiare. Va bene. Come sto uscendo con l'LMS 200, bene? Dopo, Antonio, dopo, dai. C'ho il piatto in mano e lo sto dando a mano. Vabbè, fai pure. Ok. cambio. Allo, allo. Ci ha mangiato, hai? Eia, ma roba semplice. Era un piatto di pasta asciutta, cioè pennette con sugo al basilico e parmigiano e poi due hamburger. È roba veloce. Ho capito, ho capito. Prima mi hai detto di guardare forse un segnale. Che prova stai facendo? Sto usando il messo 200 che mi ho preso. Come sto uscendo? L'LMS 200? Oh, allora, sembrerebbe carico di bassi. Carico di bassi, fammela sentire meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma sei liscio? Diciamo che la radio modulazione potrebbe essere un pochino più limpida, però dipende dalla mic che gli hai messo anche. Boh. L'F16 sto usando. Quale stai usando? L'F16. Eia, ma LMS200, proprio quello di allora, quello che ha praticamente 50 canali per banda, quello color marrone? Esatto, sì, bravo, l'originale. Ma il bip suo qual è? Il solo suo bip? Perché ne sento tre, o più di tre. Vabbè, il bip, aspetta. Adesso tolgo il microfono, il bip del microfono, guarda un po'. Sì, c'è un bip non proprio come 3009, un po' più armonico, no? Io me lo ricordo all'epoca com'era, è leggermente diverso da com'era negli anni 80, forse la circuitazione un pochino ne ha sofferto di tutti questi anni, però dopo tutto, vabbè, carico di bassi, che dire. Vabbè, riesce bene, me lo sono comprato. Eia, dove l'hai trovato, di persona o online l'hai preso? No, no, me l'ha dato Antonio, me l'ha dato, quello che mi ha dato la B27, cioè, la B27L, hai capito, tutta la roba sua me l'ha dato. Eia, l'LMS200 era uno dei miei sogni nel cassetto all'epoca, ma costava, e io non avevo, ero piccolino, ero piccino, non potevo proprio spendere nulla. Ascolta, lo vuoi provare anche in FM, in banda? Sì, perché no? Proviamo in FM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Sembra una buona. Adesso fai un passaggio un po' più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Sì, questo meno bassi, sembra più fedele un pochino alla, un po' più fedele alla voce tua. In M è un po' più carica di bassi. In M potrebbe migliorare leggermente un pochino, però niente da dire. A me mi senti bene perché ho il mic amplificato, sto cercando di parlare piano per non scappare. No, ti ascolto benissimo, ci mancherebbe. È nuovo nuovo, sai cos'è nuovo nuovo? Non c'è un graffio, manco un graffio nella carrozzeria. L'ultimo passaggio per me, cosa mi ha detto? Che non c'è neanche un graffio, ho detto, non c'è manco un graffio nella carrozzeria, né frontale, tanto meno nella carrozzeria. È nuovo nuovo. Ehi, prova USB, però io non so il mio quanto sia centrato, Ascolta, se tu hai il tunnel clonifero, devo muovere solo in ricezione per centrarmi. Il clonifero, il clonifero, come si chiama, ok? Lo so, non ti preoccupare. USB. Come passare a levare le strutture sulla stazione USB che ha fatto il computer. Allora, per la quale siamo Adesso sono geloso io, eh. Oh, 1, 2, 3, auliuli. Va, bruciato tutto. Antone, AM. Modulazione di ampiezza. Va, ciao, mi, bruciato tutto. Andiamo a metà, prova. Beh, vedo che sale. Metà mic. 1, 2, 3, sale. Così è altamente più forte. No, male Antone, malissimo. C'è una terrificante alternata che ti copre la modulazione. Adesso va bene. Male, c'è una terrificante alternata, ti annulla la radio, prova a cambiare alimentazione. Non c'è da bagno però, eh. Ora. Male Antone, solo il bip è pulito, però la modulazione, che siano rientri RF, non lo so, hai possibilità di alimentarlo con quelle batterie da 12 volt, piombo gel, quelle da 10 ampere, quelle degli allarmi, non è che ne hai. Aspetta un attimo. È strano perché all'inizio stava andando bene. Marco, ci sei, sì. Sì, ti sento con volume basso. Dimmi tutto. Volume basso. Aspetta. Adesso. Meglio. Ricordati il mic gain, tanto vale il mic gain della radio. Lascia la manetta. Casomai abbassi quello il microfono, lo alzi in base a là. Cos'è il Sa Delta? Sì, questo è il Sa Delta, bravo, sì, ci sarei fatto. Lo sto, non mi avrebbe fatto un effetto del genere. Però con quel microfono te l'ha fatto, boh, qualche, non lo so, ma, boh, non saprei. Mi sta venendo un dubbio anche a me, e le stazioni ci siamo rifatti osso. Invece con il microfono non male, beh, vediamo dopo se funziona. Eia, ho detto, adesso io sono geloso. Perché? Dimmi. Per quella radio lì, io sai quante volte online ne ho corteggiati di quelli, di LMS200 in vendita, però vabbè, il prezzo era accettabile per me, però ho detto, dopo tutto è una radio che ha lavorato 40 anni e non mi sono fidato alla fine a spendere quelle cifre. Guarda, fammi cambiare lo Smith e te lo regalo, ti va bene? Antone, quello l'ha regalato a te, goditelo tu, ci mancherebbe, goditelo tu quello. E col mic adatto pare che vada bene, da. A me non mi costa niente, non me ne frega proprio niente. Tu figurati che stamattina mi hanno chiesto di prendere il demo, quello che ho io, quindi a 100 punto. Quando voglio pagare i contanti, 300 euro subito. Via. E lo smitter che cosa ha? È rotto fisicamente oppure è un filettino staccato? No, no, è incantato più che altro, capito? Ma io ce l'ho uno uguale, monta quello dell'FM500S, quindi non faccio altro che cambiare la patente della patente, invece dove c'è come si chiama, la lettura, quella te la lascio uguale. Ha già compreso, dai. Insomma, è stato trattato bene, dai. Probabilmente è uniproprietario quell'apparato. Esatto, sì, bravo, ci sei arrivato. E lo stesso era bello ai suoi tempi, l'Aileen Quinto. A me piaceva però la versione quella col bip alla Modigliani. L'unico mi pare che fa quel bip è l'Aileen Quinto, però versione 2795DX. Gli altri non hanno quel bip alla Modigliani, te lo ricordi quello che fa tui? Sì, me lo ricordo infatti. A voglia. Cosa è sparito, sei cazzo? No, sono qua. Stavo cercando se trovavo quei Roger Bip di test su YouTube. Vediamo, a ricordarsene. No, non mi ricordo più com'è cazzo fosse, la verità. Allora, sto usando adesso la verità che stavo usando poco fa, quindi allora il microfono. Facendo quel difetto di merda, microfono amplificato l'F16, questo ce lo butto una mondezza, ce lo butto. Sai che l'ho avuto anch'io l'F16, forse ce l'ho tuttora se non l'ho regalato, però mi dispiace ma NCS non ci siamo, molto meglio questo, molto meglio il DM1000, quello palmare, DM1000 si chiama, sì, che poi anche quello l'ho dato perché non mi soddisfava, vabbè. E già ti capisco, non c'è problema. Adesso aspetta un secondo, voglio portarlo a prova. Riaggancio nuovo quello con il microfono solo normale originale. Vediamo se fa lo stesso effetto. Prova che sono qua, dai. Sono appollaiato sul divano. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per ora tutto bene. Tutto a posto, quindi ho... Allora quel cazzo di F10 è... Adesso capisco perché cazzo gli è pianto fuoco cazzo il balacchino cazzo e Giuseppe Leoncino, anzi l'F16 più che altro. Ehi, comunque quel mic prova a parlare vicino, è un po' muffled, forse la capsula è un po' vecchia mi e non reagisce bene alla pressione sonora. Vabbè, la capsula già gliela cambio, non è quello il problema, infatti funzioni bene, voglio sapere solamente se è il problema di F16 l'amplificatore, se no figlio ti dà un po' il microfono dell'altro balacchino. Sono già morto. Com'è Antone? No, pensavo che ero già morto, ho detto, nel senso che non usciva più in trasmissione, come se fosse stato in protezione, mi capito? No, stavo ascoltando i bip di vari radio, no? E fra poco senti quello di Modigliani, questi sono tutti normali. Questa dell'LMS200. Aspetta. Mi guarda quello tipo Modigliani, aspetta che arriva, Questa è l'LMS200. Adesso Modigliani. No, non era così. Era quello d'Aileen Quinto. Quel Modigliani era leggermente più lungo di questo qua, ma poca roba. Ma quello di Modigliani è l'Aileen Quinto. Ed è fatto tui, poi la lunghezza può essere leggermente più corta, più dipende il componente, sai, le tolleranze ai componenti. Era particolare come bip, comunque bello anche quello dell'LMS200 originale, mi piaceva un sacco all'epoca. Invece il più brutti erano i multimode, quel lo so, infatti. Comunque sta uscendo bene adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ehi, comunque il MIP già rende, dai, poi man mano che lo fai funzionare, qua, molto tempo è stato fermo quella radio lì? Quasi 3 mesi, già lo sai, già te lo ricordi, 2-3 mesi, ancora c'è. Ma questo ragazzo aveva modulato con noi, aveva provato. Ehi, non è un ragazzo, c'ha, cazzo, spiegando di me 10 anni. Ehi, ragazzo, adesso io non so appunto l'età... L'ho buttata così, dai. Bene, bene, sono contento che sopravviva una perla di quegli anni là. Meglio così, sono contento anch'io che non sia problema di cose di apparecchio. Sia problema di microfono, di cazzo, più che altro. Oddio, l'ha tenuto, oddio. Se mi avvicino che sto qui. Sembra a posto, quindi vuol dire è tranquillo, sono contenta. Un po'. Ciucucciu. Sì, è particolare quell'apparato perché ha l'indicatore canali al centro, no? E le manopole sono sia a sinistra sia a destra, in basso. Esatto, sì, bravo. È bello, è bello. Tienitelo bene quello mi. Ma questo è per te, credetelo bene tu, non io. Ma scusa, perché a te non piace? No, perché è bello che ho fatto a te più che altro. E se vuoi te ne do uno che piace a te, di quelli che ho io. Sì, un 680 se ce l'hai, a pezzi, magari, spaccata metà, a me mi dai dove c'è frequenzimetro e poi il resto te lo tiri. No, purtroppo che un Vudame non ne ho più. Io ho avuto il 140 e rimpiango lo Smitter. Lo Smitter era impagabile, il resto si poteva anche buttare. Il QRM più che altro. No, ma il QRM, ti dirò Antone, che il QRM qui era normale, cioè ricevevi un 3 di QRM come lo ricevono però anche tutti gli altri baracchini. Tu forse hai molto QRM perché hai quella, come si chiama, quel traliccio dell'alta tensione, quello genera un sacco di macello in aria. Oh, tipo nell'apparecchio ce lo sai anche tu, i 80, cazzo, ogni giorno c'avevo il QRM, sapevo 9, se tu non passavi il segnale 9, col cazzo ti sentivo io, già te lo ricordi, cazzo, era un casino, sei tipo shh, cazzo, uscivo di testa, uscivo a casa, hai capito? Guarda, l'unica cosa ha fatto male a Dallo è più che altro in trasmissione, non in ricezione, più che altro è la verità. Poi nel resto mi andava benissimo, mi andava. Ho dovuto pagarmi la bolletta, la verità. Te lo ricordi, era sotto Adriano, poi Adriano le aveva messo il microfono, l'aveva sfondato e eccetera eccetera, e l'aveva riparato, se ti ricordi bene. No, non mi ricordo Antone, figurati con la mia memoria, con la memoria che mi canta. Che altro dire, oggi bella giornata, stamattina sono uscito a fare in moto, a fare un paio di commissioni, prendere giornali in edicola, poi sono andato da MD a prendere 2 fesserie, mi sono bevuto un bicchiere d'acqua al bar, che c'avevo la gola secca, che non veniva bene a dirlo nemmeno. E cos'altro, poi sono andato alla Carrefour qua vicino perché c'era un articolo che mi serviva e basta. Il tempo diciamo che è ulteriormente migliorato, ma chissà che tenga, anche il vento è cessato perché qua ne stava stracciando le tende questi 2 giorni, per favore non straccia le tende dei supporti, io ancora non le ho tolte, anche perché fanno abbastanza privacy, capito, se no nella porta finestra cucina mi vedono mangiando eccetera nel palazzo di fronte, quindi le ho lasciate. Ho capito, quindi vabbè, ho detto che, a parte ieri c'erano passati dei fulmini che non avevano idea. Io ho detto a Simona, guarda che sta fulminando, ho detto, staccale tutto, no, ce ne sono fulmini, no, mi ha detto. Aspetta, sono visti, sono tardi alle bosa, gli ho detto. Stanno salendo, ho detto, verso la zona, detto, di Iti, di cose del genere. Poi c'erano la produttore, ci sono stati una quindicina, non di più. Meno male non ho scaricato qua. Ho letto. Cos'era? Cos'è caduto? Ho letto, è caduto qualcosa in terrazzino. Dicevo, ho letto della tempesta di fulmini Alghero. L'ho letto stamattina, mi pare. Esatto, sì, tu immaginati, cazzo, se tu ti piazzi una terra di lì, chiedi, una manto, ma quello che è, cazzo, ma secondo te non ti prendi in pieno. Hai detto, sì, ciu. In quanto ne, allora quel botto che ho sentito, avevo la tanica della benzina vuota e l'avevo messa fuori dalla finestra. Cosa è successo? Con i vapori della benzina si stava un po' assestando il metallo, si stava un po' dilatando. Sento questo tan, e adesso che ho tolto il tappo per sgonfiare un po' la pressione dovuta al calore del sole, di nuovo ha fatto due sdeng, è presente, no? La lamiera, è fatta la lamiera quella tanica di benzina. Quando si dilata o si sgonfia fa quel rumoraccio là. Beh, logico, ci mancherebbe, lo sai anche tu, no? La tanica della benzina si gonfia, è come le, cioè il coso per il gas gonfiare, come si chiama, non gonfiare, vabbè, per caricare gli accendini, tale uguale, se te lo trova poco a poco con un pochettino di caldo, pah, ti si incendia la macchina, ma con te ne accorgi. No, anche perché io l'ho messa fuori dalla finestra e praticamente l'angolino di sole è andato a picchiare sulla tanica di benzina, capito? Io volevo che rimanesse all'ombra, adesso la sposto, la lascio fuori un po' per perdere un pochino di odore. Peccato l'imbuto che ho usato, da. Va bene. D'accordo, non c'è problema, già sono qua. Naturalmente dopo pranzo, Antonio, mi viene questo abbiocco, cioè gli occhi a mezz'astami, le palpebre a metà altezza, le serrande a metà altezza. La serrata a metà altezza, cioè esagerato, cazzo, a posto siamo. E beh, me lo fa dopo pranzo, sai, sono uscito, ho cucinato, cosa, c'è un po' di abbiocco mi viene dopo pranzo. Infatti dopo vado e mi codo il letto. Poi ti chiederò, me da, ha già compreso. No, anche poi magari dormiranno un riposino così da. In realtà dicono che se vuoi tenere la linea dovresti camminare dopo mangiato, farti una passeggiata. Capito? Non mangiare poi a coricarsi, perché ingrassi è buono, infatti la pancia già mi è tornata la pancia. E dopo pranzo bisogna trovare una bella brasiliana e fare un po' di footing. Footing o footing? Footing, in modo che li footing. Quanto sono? Un'ora e mezzo, massimo due, quello che è. Capito, sei a posto e fai quello che devi fare. È che le brasiliane sono abituate ai brasiliani che hanno dei pali della luce, no? Al posto dei. Già capito, no? Non vorrei fare brutta figura. Non è vero, non è vero quello. Scegliono i saldi, già lo sai che noi saldi siamo ben dotati. Lungo, corto, quello che è, basta che sia un gabbiscotto. Cesso, che discorsi scabrosi. Cosa ti devo dire secondo te? Sto scendo sempre bene, sì, non è che sto scendo male. No, benino, diciamo, te l'ho detto, la modulazione poteva essere un po' più limpida, te l'ho detto, magari la capsula vecchia, tanto è quella a 500 ohm, no? La gente la cambia la capsula, non è quello il problema, informate che non, non brucio l'apparecchio, è colpa di un microfono per il cazzo del cazzo, hai capito, tutto lì, quindi... Stasera cambio la capsula e gliela metto come si deve. Chissà come la piedinatura, di quello? Cosa sono, quattro poli? Sì, quattro poli so. E ti ricordi com'è, sei più tipo superstar o più tipo Midland, il classico Midland, come si chiama, l'Alan 48? Attacco Midland, Un po' più seccante, vabbè. Ma tu i fili come li hai fatti dei microfoni? Li hai saldati al volo? Saldati come si deve, la verità. Attacco Midland, quindi a un certo punto cosa vi posso dire? Aspetta un attimino, io uno qui, il microfono Midland, aspetta un secondo, vediamo se funziona. Bello, sembra un cinguettio quel Roger Beep. No, quando sembra la capsula Midland di questa qua non funziona. Vabbè, gliela cambio stasera, tanto ce l'ho una capsula, così almeno vediamo come esce. Comunque il ballottino funziona sempre, quindi non è bruciato. E siamo a posto, quello che mi interessa più che altro. Quindi vuol dire che cazzo quel cazzo di microfono F16 gli faccio fare il volo. E io lo stesso o l'ho messo da parte o l'ho regalato, non me lo ricordo la verità. Sai cos'è però? Il mio, quando era nuovo andava un po' meglio, poi dopo tanti anni che era fermo, 15 anni, 20 anni fermo, si è sciabidato l'F16. E comunque non era un gran chemi. Cioè, te l'ho detto, molto meglio, anche allo ZG va meglio del mio F16. Beh, quello sì, quello è logico. E questo meglio ancora, è più limpida, è più bilanciata di toni, mentre il DM1000 aveva troppi bassi, cioè a me dicevano con la mia voce, mi faceva una voce più mascola, capito? Però non era la mia voce naturale, questo dovrebbe essere abbastanza fedele. Non ti faceva la voce da cosa? Da avvocato. Da avvocato delle cause perse. No, c'è un avvocato che ti giuro che cazzo è alto, quasi 1,80 m. Te lo sto dicendo, per quanto lo sto dicendo, il problema. Sarà quello che è, però la verità ti accontenta, Eia. Ma che altro, boh, che te devo dire? Niente, all'apparecchio non è successo niente, adesso quindi sono a posto. Era solamente il microfono che stava girando i coglioni. Quando ho fatto con Giuseppe Leoncino, con l'apparecchio suo, che gli ha pigliato fuoco il finale, in trasmissione, e quello dell'audio. Adesso capisco perché. Se non avrei staccato la guida avrei pigliato fuoco anch'io di qua, quindi a un certo punto, meno male, mi sono salvato. Eia. Qua ti voglio dire, Antonè, aspetta, di antenne, una domanda sulle antenne ti volevo fare, ma adesso mi è passato di mente, porca c'è la miseria, ieri notte ci stavo pensando, vabbè, se mi viene in mente già te lo chiedo. Io sono qua, qual è il problema? Riguardava il fattore di velocità, che per calcolare, poi l'ho visto su internet, per calcolare un quarto d'onda di una frequenza, no? se ti vuoi costruire una Grand Plane per esempio, dividi la lunghezza d'onda per 4 e poi moltiplichi questo quarto per 0,95, che è un numero che danno che non riguarda i cavi coassiali, perché lì il fattore di velocità è più lento. 0,95, quello lì volevo, poi la conferma l'avevo trovata su internet, da il confetto che siamo senza sapere. Allora, coefficiente capacitivo, ecco, ci sono arrivato. Quello si chiama coefficiente capacitivo, più che altro. In pratica sarebbe la lunghezza d'onda, i metri, e poi il coefficiente capacitivo del cavo, cioè in pratica sarebbe tipo in presenza, come la vuoi chiamare, quello lì, hai capito? Lunghezza d'onda, quello che è, la lunghezza d'onda, vabbè, la 27 è sempre 11 metri, 5,50, eccetera, eccetera, il discorso è quello lì. Stavo provando un'antenna per scanner, no, che ha vari stili, c'è un'antenna base magnetica, c'ha vari stili tutti affiancati, sono quattro stili. Praticamente con lo scanner, in base alla frequenza dove sei, lui si sceglie, tra virgolette, come ricezione lo stilo che più si avvicina a quella frequenza, da, che risuona vagamente su quella frequenza. Siccome li ho misurati, volevo capire bene o male dove risuonavano, e poi si è capito. Diciamo, è stato ottimizzato per la banda aerea, poi uno per la banda aerea militare, quella 230, 240, 250 MHz, adesso di sicuro non te lo so dire. Poi l'altro stilo sembra fatto proprio apposta, un quarto d'onda per i 380 MHz, sai che 380, 390, 390 sia un po' di roba che non ho mai capito cos'è. E poi c'è uno stilo che è una bobina un po' lunga, praticamente la classica antenna VU B-banda. E poi uno stilo, no, l'altro te l'ho già detto, là. Quello il più lungo è per la banda aerea praticamente, anche se loro dicono 25, riceve dai 25 ai 2000 MHz, è una balla fenomenale, non prende un cavolo in 27, è troppo corto, in 2000 è troppo lungo, tutti gli stili sono troppo lunghi, quindi lo scrivono così per fare cingomma, capito? Ho capito. Oggi ho compreso cos'è il problema. Tutti provano, ma bisogna vedere come stanno le cose, il discorso è quello, come risuona, come non risuona. Io l'ho provata già in macchina, e bene o male avevo portato un'altra antenna. Avevo portato un'altra antenna e ho fatto le prove, ricevendo radioamatori magari anche un po' lontani, no? E bene o male si equivalgono. Ecco, la differenza è che quello magari ha vari stili che vanno bene anche per la VHF bassa, in teoria. VHF bassa, banda aerea, le solite bande poi solo, alla fine. Oltre a quelle non senti altro, mi te capì? Chi c'è sul 10 avanti? Sono qui, sono entrato. Chi è avanti? Non ti sento. Non mi senti? No, ti sento basso. Ma cosa stai dicendo? Che te lo sto dicendo? Ti sento basso, scusa. Aumenta il volume, cosa abbasso? Aspetta, lo sto dicendo, ma non ci credo davvero. Aumenta il volume. Qua 95, ciao Giulio. Ciao Marco. Vedi, Antonello stasera sta dando i numeri. Magari. No, sai cos'è? C'ha quello smitter, sta usando un apparato che c'ha uno smitter, come dire, mezzo, che non sale, mi è mezzo bloccato. E allora cosa sta a dire? Non ti sento. Dice, non ti voglio sentire, devi dire, non è che non mi senti, non mi vuoi sentire. Vabbè, si è attaccato l'altro, ah, ecco, guarda come è attaccato l'altro. Attacca quello che ti piace, non mi interessa, basta che tu mi rispondi. Susano, l'hai messo 200, hai capito il discorso. In pratica, se mi dici dello smite, non ti segna, però della radio poco fa è di basso. Poi adesso hai attaccato l'altro, puttinoso, cos'è l'uffio? Io ho attaccato l'altro, che cosa ho attaccato io? Se io sono... Lidia ha attaccato me. Marco, ma te lo prendo a Torello, te lo compri? Stacca lineare, stacca. No, non è lineare, sono i watt della radio. No, forse Giulio, appena sei entrato avevi la voce più bassa, come che avessi... C'è la voce un po', quando lo fa anche a me. All'inizio che magari entro c'ho la voce un po' cavernosa, già capito, poi come si scioglie la voce, si può anche cantare e ululare. No, cantare non canto, perché se no perché sono stonato, per cui no, è meglio che non canti, perciò va bene così. Antone, aiuta, raccontaci qualcosa di bello e di buono soprattutto. Cosa vuoi raccontarti? Boh. Per carità, lascia perdere questo periodo, è un periodo strano, ce l'hai visto anche tu. Quindi, a un certo punto, cosa vuoi fare? Sì, Giulio, abbiamo trovato una soluzione alla 27 che si spopola, me ne stavamo parlando con Antonello ieri, Giulio. Illuminami Marco, vediamo un po' se posso dire che va bene o va male. Guarda, qua bisogna far entrare donne, cugine, che ne so, figlie, nipoti, conoscenti, qua se tu fai entrare donne in radio, io dico che escono i morti dalle tombe della 27, gente che non entra da 30 anni ricomincerà a modulare, te lo garantisco. Sì, quello è probabile. Interessante che siano donne con la D maiuscola, perché sono donne di quelli per caso, tipo gay. E oggigiorno, Marco, ci sono più gay in giro che uomini. Sì, sì, donne vere, nate donne, già ci siamo capiti, nate donne, no, diventate donne. Ah, lui sta facendo Star Strange, vabbè, quelle non le vuole più cosa Trump, ci mancherebbe. Adesso facciamo entrare solamente di quelle ragazze che battono, a un certo punto verso le 7:30, 8, quando hanno finito il servizio, più o meno si fanno le cose, cosa si posso dire? Dico, guarda che c'è una frequenza libera che tu puoi cercare il maschio che vuoi, dico, guarda, ti prendi il baracchino, dici, guarda, io sono libera verso le 8:30, quello che è, e me non mi faccio il sole, e così vede, basta che entrano, un sacco di gente, sai come si riempie la 27, non è l'idea. Oggi sai cos'è? Oggi non bisogna dire nemmeno gay o lesbiche, no, bisogna dire se è donna che è lesbica devi dire diversamente donna, se invece è uomo devi dire diversamente uomo. Oh Marco, basta accendere Mediaset, canale 5, ce ne sono poco di culi caldi. Beh, molti personaggi televisivi ci hanno fatto una carriera su quel modo di essere, vedi Malgioglio e anche altri. Oh yeah. Adesso è tutto strano, tutto LGBTQ più, ogni giorno c'è una lettera nuova, non so nemmeno, ogni giorno aggiungono un colore alla bandiera, non si capisce più niente. Un attimino che mi sto stiracchiando, vado a bere signori, riprendete voi. Ok Marco, vai a bere, vai. che così almeno ti rinfreschi un pochino, tanto già c'è un poco caldo. Antone, tu cosa ne pensi? Beh, quello che ho detto. Io ne dipende una, bene. Capito? Ogni giorno c'è una in televisione, per carità la sapere perché è meglio. Ormai la TV più che di politica non parla, quelle così, quell'altra, quella, eccetera, eccetera, di destra, quell'altro di sinistra. Quindi a un certo punto Marco non ne vale neanche più la pena la verità di accendere il televisore. E invece dammi un controllo come sto scendendo con questo LMS 200, sto scendendo bene o sto scendendo male? Carità, carità. Ma oggi quando tu accendi la televisione, soprattutto sui canali media, senti, non senti altro che parlare di gay e di puttane, più che quando lo senti. È una vergogna veramente, guarda, veramente una vergogna. La vita come si è stravolta rispetto agli anni di quando veramente c'erano le vere donne e i veri uomini. È veramente vergognoso oggi, mi fanno anche schifo. Purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Sono gli anni che furono. Ma la cosa che più mi dà fastidio, sai qual è? Che hanno di una prepotenza, di una stravaganza incredibile. Hanno sempre ragione loro, secondo la loro mente malata che hanno, perché quelli hanno solamente la parte bassa malata, hanno anche la mente malata. Sì, quello c'è, però, la verità. La fine invece lo sai che è fatta così. Non toccare nessuno del centro-destra, quindi siamo a posto. Per carità, ragazzi. E beh, Marco, fatatela questa bevuta. Non mi ha risposto a me, però, come sto scendendo con questo LMS 200? Bene o male? Con il microfono male suo, naturalmente. Sarò basso di radio, quello che è, però dammi il controllo di segnale. Il segnale è buono, è alto. La radio, se tu parli vicino, io ti capisco bene. E soprattutto devi parlare leggermente più lento, perché tu hai una favella, io la dico così, dai. Hai una favella veloce, che tante volte ti mangi le parole. Invece parla più vicino al microfono e soprattutto leggermente più lento. E riesci che è una meraviglia, guarda. O Antonio, va bene, no, ok, non c'è problema, va bene, voglio sapere solamente quello. È il baracchino di Antonio, quel che altro ricordi, Antonio Delta 1, quindi ciò che le dà a me è uguale che le dà a lui, tranne che io, lo sai, parlo veloce, il discorso è quello, però è uguale. Adesso li cambierò la capsula al microfono normale, così almeno esce bene. Ok, comunque ho guardato il segnale adesso con i LED, tieni presente che il mio segnale è solo con i LED perché è digitale, non è analogico. No, Santiago 9 è leggermente più forte, il che significa 995 più o meno. La radio è buona, però devi parlare come ti ho detto e continuare sempre così. Va bene, vediamo se Marco è rientrato. Marco? Sì, sono qua, però a breve devo dare la terapia a mamma un pochino, e quindi giusto un paio di passaggi, poi magari ritorno, vediamo. E quindi Antonè, non ho sentito il controllo, io ho notato la radio non è proprio limpida, ho detto magari la capsula, la membrana, sai, dopo tanti anni tende un po' a cedere, non è più brillante la radio.